sempre quel rumore c'è sotto, Di nuovo. C'ho il microfono, C'è il PTT sporco col microfono. Adesso sta facendo malissimo. Perché ha fatto un po' di rumore così? Ma c'è sempre questo rumore così infame. Guarda un po', controlla il mio segnale, quando ti arrivo. E adesso? Prova. 1, 2, 3, aspetta che alza la pena. Adesso va bene, lascialo così. Adesso? Lascialo così, sei perfetto, cosa era? C'avevo il microfono sopra il baracchino. Ah, ecco, ecco. Quando ti arrivo il segnale, puoi controllare? Sì, Santiago 5 con picchi di 6, Radio 5, però già lo sai che sono senza antenna. Guarda adesso, sono salito il segnale, guarda un po'. E poco a poco, 9.20, sì. 9.20, addirittura? Scappa. Cioè, aspetta, così 9.20 e così 7, 8. No, così 5.6. Icchiazza! La radio, aspetta, la radio migliora, sempre uguale la radio. No, vabbè, così sei più presente, è più forte la radio. Però è chiara in tutte e due le modulazioni, dai. Adesso l'ho agganciato, tu sei, fa un passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Santiago 7. Sì, adesso l'ho agganciato. Aspetta, vediamo. Vabbè, già è fredda ancora. Sì, saranno 50-60 watt. Adesso non stai uscendo. Nuda. Niente? Adesso sì. Cazzo, Giove, c'è allora il microfono a massa qua. Dovresti dare una controllata a quel microfono. C'è un bel vento qua, non so lì a Tissi. E un bel ce n'è. L'antenna, ma non vale già è a posto, dai. No, ci stava a bene. Speriamo, qua c'è anche i tiranti. Cappa. E adesso dimmi com'è. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, sto facendo male. Sempre male? Sì, come faccio? Sono benissimo, non so cosa hai fatto. Boh. Adesso male, sempre? Diciamo che rumore così fa. E invece adesso sto uscendo bene. E fai passaggio più lungo però, fai. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Stai facendo malissimo. No, sta facendo male. E cosa? No, sta facendo male. Nulla, male. No, no, non ti capisco, Vediamo un po'. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, poi te lo sono benissimo quando l'hai messo il microfono che l'hai levato dal... come si chiama? Mi hai detto che era sopra il baracchino. Capa, aspetta che lo prendo in mano un attimino, dimmi se cambia qualcosa, adesso ce l'ho in mano. No, c'è proprio una di massa tu. E adesso? Prova a farti un piano di massa, cosa ne so. Dove c'è il baracchino? In camera, non so, Prova a vedere, dal PL e ti attacchi, se ti viene con un filo, al filo da stendere, al braccio del filo da stendere. Ce l'ho in camera su un pezzo di marmo, a meno che non scarico sul termosifone. Oppure fai dal microfono, dalla vitrina del microfono al piede dell'antenna. Prova a avere uno spezzone di filo, prova. Aspetta che mi devo cercare il filo adesso. Comunque sto sempre uscendo male, giusto? Non stai uscendo bene. Poco fa stavo uscendo benissimo, quando ho detto che hai levato il microfono da sopra il baracchino. Capa, adesso provo a trovare una soluzione, dai. Prova a vedere. Così ce l'ho in grembo senza che tocchi nulla di metallico il microfono. Insomma, può andare comunque. Invece così sto toccando la parte metallica del microfono, sicuramente ammassami. È una prova di massa, per quello sta facendo così. Minchia che vento, eppure non segnava tutto questa rapica di vento. Dai capa, vado in bianco un attimo e vedo di sistemarmi, dai. Via, già sono qua, là. Non per moto, già sono qua. scendo. Nulla. Niente da fare. Vabbè, là, io vado a prendere un caffè e l'ammazza, va. Sono un baracchino che pochi vatti sono, mi. 9:20, infatti anche perché c'è un po' che va e sta andando un problema. Io sono con 10 watt con 140, l'ho appena acceso, 10 watt. Capo, tu stai toccando il più 30, stai toccando la bomba. Va bene, insomma, siamo molto più vicini, però vai molto bene. Le stazionarie sono riuscito a regolarle un po', ma devo ancora migliorarle, devo, perché è un po' così. Guarda, sta segnando. Intorno ai 10 watt, 12 watt, dai. Andiamo bene, 9:20 radio 5. Ok, dai, Anto, ti lascio che sono in un'altra banda. 9:20 radio 5, lascia tutto così, non tocca nulla. Grazie, al monte arrivo così lo stesso. Ok. Ciao, grazie per il controllo. Via, non ti preoccupare, siamo qua. Ciao. Ciao, chi è che vuole entrare? Avanti? Ciao. Buonasera a Tissi, buonasera. Ho detto ciao la buona e Claudio, buonasera. Chi è questo sotto? Chi è questo? Sei qua, sei 9:10 radio 5 da Tissi. C'è un QRM allucinante, chissà cosa ammala tutti. Addirittura, te l'ho sentito già, c'è un po' di propagazione. Ma attenzione, mi ascoltate con 10, cambio. Attenzione, Claudio Spaghiero, buonasera. Sta pagando. Adesso è un QRM allucinante. Comunque arrivi bene da Tissi, Sì, Santiago 9:10, radio 5. Ehi, cos'è la grossa antenna? Sono a Medicuma, la cappa massa del microfono. Adesso appena un attimo. Attenzione, cari amici, cambio, mi ascoltate, cambio. Avanti, chi è che sta chiamando, avanti. Sei da questa parte, Porto Torres, cambio. Avanti, già ti sento, vieni avanti, da dove moduli? Porto Torres, cambio, il re di Porto Torres, cambio. Ragazzi, l'hai sentito l'amico? Tu dove stai, modulando? Attenzione l'amico mi senti, capa. Ma sei in Sardegna, sei fuori. Ma come ce l'hai? Attenzione, ascolti, ma c'è con me? Ehi, a chi è? Avanti. Ehi, sono etico e sono da produttore, sono modulando da produttore. Ma c'è un bel basso, c'è un bel di QRM qua. Minchia, casa a due. Ma chi sei, Giovanni? Ciao. Claudio, non mi ha risposto, in gamba, chi sei? No, io non sento nessuno. Io non sento più nessuno, ma c'è ancora qualcuno sul mio cavallo. Regale! Chi sei, Vinco, Pianetto? E Antonio sono, avanti! E Antonio, non sentivo più nessuno, perché sta andando con qualcuno, invece no. Ma c'è l'amico Latissi, no? Oh, per avere una mini boomerang stai uscendo anche abbastanza forte. Sassari, Donalda di Sassari. Ma la mini boomerang non rende come antenna, però ho detto tutto che non renda. Ti sento. Basta, ragazzi, e ce ne mettiamo una in grazia di Dio, così mi sentirò attenzione. No, già ti sento. Io una volta ce l'ho avuta, mi ha fatto girare un capo per tararla, mamma mia. Beh, io adesso sono al contrario, sono messa con la viale. Il tuo fratello. modo che riesco ad accordarla a stazionare 1-2-1-3. Ma già va bene, è tuo fratello, no Andrea, non ho sentito. Il mio fratello dovrebbe entrare, tanto è che sono ma mi sa tanto che si sta usando la propaganda, ne vediamo la bella tra un po'. Che banda laterale non c'è una banda laterale qua. Si è aperto il cielo, mamma mia. Tu come mi senti in quella zona? Sara, tu con questa antenna mi sta arrivando, Santiago 5 e Radio 5. Sì, poca potenza c'ho me. Sì, non mi arrivi bene, considera che Claudio, eccetera, mi arrivano Santiago 4, quindi già mi stai arrivando bene. Sì, ma chissà un bravo se vi annuncia, lascia perdere. E tu che antenna c'hai? Ringo. Io vedo un attimino se mettermi in una circostante, mettermi in una più piccola o cantomi. In 15 siamo rimasti, basta che ci sentiamo tra di noi, poi non devo arrivare a Cagliari. Giuseppe, adesso mi dovresti sentire, guarda un po'. Antonio, guarda se mi sente adesso. Sento che ti sente. Ho aumentato un po' di segnale qua. Sento che non mi sente. Fanti, chi è? Chi è che stava chiamando? Posso parlare io sopra? Ciao Natalia, buongiorno, anzi, buonasera. Buongiorno anche a te. E mica ti stavano chiamando, ma chi è? Ma sbaglio è Porto Torres. Sogulore, ti so Guggiamelli, ui, ui. Ui, Eugenio, buonasera, Eugenio di Porto Torres. Buonasera, Sogulore, ti so Guggiamelli. Tu stai parlando con Itti che non mi rispondi, venga a Baggi. E come ti arrivo in Porto Torra? A livello tappeto persiano. Ho capito. Mi Natali, Eugenio è entrato. Sento Natalino. Si è allontanato, un attimo sto facendo cosa, un attimo. Cava. Ah, ma Caputo d'Oro arrivo, sì. Ma tu non sei a casa. Sì, no, che faccio un correme allucinante. Chissà che marasso si è. Antonio, ma mi sente Giuseppe? Natalino. Sì, ha detto che già ti sente. Perché ho aumentato, adesso abbasso, torna. Che c'ho stazionaria, hai capito? Natalino. L'antenna, mia voce ha dentro lì. Stazionaria, a macchini che ando più. Ho alzato per fargli vedere un pochettino, alzato per fargli vedere che già posso arrivare da lui. Già la piazza, l'antenna nuova, là, quando piazza l'antenna nuova non c'è problema. Spitto Martalino. Dove si va, questo, a scala 10? Allora, picchi in modulazione. Ciao Fabio, buonasera. Buonasera anche a lei, chi è? Io Sguscio, sono tornato. Oh, ciao Sguscio, buonasera. Sguscio da Itiri, sì. Da Itiri. Cappa. E ho mosso un po' l'antenna, non è cambiato nulla. Adesso stai arrivando molto, molto, molto, molto meglio. Abbiamo per me 10 minuti e poi ci sentiamo. Va bene. Però vedi, a 1 e 2. Allora, già va bene, è accettabile. L'importante è dove ci modulate. Abba. Conoscerai, Antonio Mura. A voi. Antonio Mura. Aspetta, Natali, che sta parlando Eugenio. Sono passato praticamente un avvio, ho visto la tua antenna, tutta la risultata, cioè c'è l'antenna, così. No, non hai visto la mia, è impossibile. La mia non si vede. Tu ne hai visto una, l'hai entrata al porotto adesso. Sì, proprio dentro, sul tetto. Ma se vai pozzi, dove l'hai vista? Non lo so, la zona. Comunque una Jägermeister. Quella di Emiliano, quella è Emiliano Caimano, la tua sera di Pozzi, subito all'ingresso del produttore si dice. Esatto, sì, proprio lì. Cazzo, ma la tua pigia, dai. No, aspetta, no, se no non si vede a nulla. No, ma la mia, no, flette tantissimo, ma non si tronca. Perché le fascette non bisogna stringerle forte. No, già tiene. Vabbè, dai. Sì, dai, facciamo scaldare i motori, e beh Natali, non lo senti Eugenio? Basso lo sento, perché ho problemi in ricezione, già lo sai. Va bene, facciamo scaldare il motore oggi, meglio mi ascolti, sì? Sì, non voglio a lui, fai scaldare, fai, vai, è una bomba. Andiamo. No, sai qui bene da me, dai, se ti ascolto bene. Ogni tanto mi sono questo QRM a colpi, non so perché. Che è una bastarda leva, cuccio. Natali, riprendi. C'è stazionaria, c'ho. Se passiamo in FM magari lo sento meglio, Eugenio. Adesso sto uscendo. Prova. 1, 2, 3, prova. Ma c'è sempre quel fruscio sotto. Ma solo tu lo senti questo fruscio, gli altri non me lo sentivano, magari. Cosa vuol ti dica? Vuol dire che c'ho io il problema. Gli altri sento bene, a te non ti ascolto bene, cosa mi sono? No, no, è che gli altri non, già l'ho chiesto, mi ha detto Radio 5, quindi boh. E io te lo ascolto. A chi? A Giuseppe. A Giuseppe Plattamona, io no. No, non è Giuseppe Plattamona. No, Giuseppe Iove. Sì, eh. Non mi ricordo come inattivo, mannaggia a me, io sto prendendo un po' di colpi, cazzo. Come ho fatto i vaccini. Mi sono dimenticato anche la fontina al Conad, ma dimmi tu che. Sguscio. Ah, sguscio, sguscio. No, sguscio non lo sento. Sento solo un bip da lontano, ma non lo sento, non arriva qua. Perché gli altri ascolto bene? Perché ti ascolto, non ti ascolto bene, sguscio? Non dipende da me. Io possiamo in FM, e così almeno a Eugenio lo sento bene. Aspetta, Maria di Filippi! Eugenio! Che bello! Lavoro, sì! Sì, che sono riuscito a accordare l'antenna. Ma sai cosa era quella la malattia sua, lo sai cosa era? Accordatela, fammi un do, un mi minore! Lo devo fare a 4,80 metri, come dice il manuale, e sono riuscito a accordarla. La dovrei ancora abbassare e stazionare, adesso va bene. Chi ha pregato? Vedi, avanti l'amico, chi è Antonio? Ehi, io gioco, avanti. Ma tu, frusciato mi senti? Chi sei? Sguscio da tizi. Dice, chi è importante? Senti la tua, c'è rumore sotto, senti la portante da parlare, sguscio. Aspetta un attimo, non ho capito una, mi siete parlati sopra. Ho detto, c'è la portante muta senza parlare. Antonio, mi senti? E avanti. Tu come mi copri? Ma... bene. Perché? Cosa c'è? No, perché mi sta dicendo l'amico che mi sente tutto frusciato e non esco di microfono. Ah, uscirei, ma questo rumore è sotto. Forse pregare il basso, cosa ne so, buh? Tanto dammi un controllo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, Samassi, Salure. Sì, appena hai qualcosa sento. Sì, Santiago Roca, Radio 5, da Tissi, tu. Tanto io quando sto arrivando, 9.30, ci arrivo. E tu mi arrivi più di 9.20. Vai, vedi. Guarda, 1, 2, 3, prova. 9.30, Radio 5, la mappa di Nevaria. Ehi, che cazzo. Avanti, oggi. Grazie, la parola c'era un vento allucinante e sono andato a trovare l'attore, saluta l'attore, là. Poverino, ma si sapeva che faceva che moriva, sapeva, l'ha messo male. L'ha messo male, praticamente sono partite le cellule tumorali, boh, oh, yeah. Ma tu diso, si sono praticamente in coso, in metastasi. Sì, sì, sì, poi aveva dimagrito tantissimo, per come era lui, vedo deciu. Praticamente era magro magro, aveva anche un colorito strano, mi hanno detto, io non l'ho visto, però purtroppo succede. Lo so, dai. La vita purtroppo è questa, non la può cambiare nessuno, quando ti arriva quel male non guarda in faccia né a me, né a te, né ai vedi, né ai ricchi, né ai poveri, da nessuno. Allora, purtroppo siamo il passaggio, come dice qualcuno, basta, va. Questo gruppo roba di Aspara, Gesù Maria, ma che cazzo di mazzinà, ma se sai i posti, sai i posti che domani ne escono a bizzeffa di queste Aspara, ti vuole arriviso. Avanti, Atarius. Sono una Aspara, ci pisciati dal cane, ci dovevo per qua. Beh, pompetta. Allora, ogni vento, cazzo, faccio la matta, poi si sta piegando la parte opposta. Io e Gemma la vedo in strada stanotte. Invece la big band è bella attenta, senza tiranti. Sei varaioso, non ti preoccupare. Sì, se siete giù fa danno. Tra parabola e antenna, se scende giù ammazza pure qualcuno, non so, a parte le auto. Se si muovono tirate sono fregato. Già regge, tranquillo. A meno che non appena per sbaglio stavolta qualche aereo. Me la butta giù, l'aereo ce l'abbia in culo. Era l'atomo. Tanto ce l'abbiamo tutti sopra, ce l'abbiamo. Ali, fregatene! Ci sono i drumi che passano la notte, mi sono scaricato un programma io. Grazie a Dio ce ne sono pochi di drumi la notte che passeggiano a Sassari, capito? E chi sono questi drumi che passeggiano? Quando ne vanno rimane in terra. Sono quei drumi militari che si fanno la passeggiata, capito? Ogni sera. Ci sono almeno una quindicina, ce ne sarà. Ma sopra Sassari? Eia, sopra Sassari passano. Dato ai Cagliari, poi c'è la Sicilia piena, tra aerei che passano a bassa quota. Capo, io da fissi queste cose non le vedo, vedi? Beh, io non è che li vedo con telescopio, c'ho un programma, c'ho, e mi registra dove passano gli aerei a certezza, capito? E intanto lo accendo, c'è poca roba in giro, elicotteri, il modello dell'elicottero. Ah capo, io ho capito qual è quello, è traffic, quell'applicazione lì. Allora, qui c'è un maniaco qua che sta baciando a Paoletto, chi è? Già detta, eh? Ehi, passo. Ma lo senti il vento? Cazzo, poco ti rendi. Sono andato nello spi, ma stavo camminando da solo. C'è qualcuno sotto? Boh, non lo so. Ciao, Pompuglio. Ciao, caro, salutoni, ben sentito. Pomponio, buonasera. Bianco, ci sentiamo più tardi, ragazzi. Ciao, ci sentiamo. Non finire? O ti faccio squillare un telefono. Ti faccio uscire lo cibo, per fare un attimo, Tu sei fidanzato, giusto? No, single. Ah, avevo capito male io allora. Come? Avevo capito male io. Voi capito o non capito, scusa? Allora avevo capito male io, credo che fossi fidanzato. No, ho 6 anni. Ah, è finito, e adesso come succede? Beh, finisce tutto, finisce la vita, finisce l'acqua, finisce il vino, finisce la birra, sì, la puoi ricomprare quello sì. E così con le donne, si finisce e si riacquista un'altra donna. Se capita, capito, se capita. Poi se non capita, è uguale. Già detto, voi Luca, non ti preoccupare. Ma non ti accuda, no, non vado, ci devo, non vado in cerca. Non vado in cerca. Già c'è prova di zecca proprio nulla. Se capita, bene, se no non mi interessa, non mi preoccupo, guardi, guarda, forse è meglio. Soldi risparmiati sono. Soldi risparmiati. Ci sono 28 anni io, che io ti fidanzato. Cocco. Madonna, le quelle che lavavano nei balmi di ragazze, ce ne sono pochi di ragazze, un singolo di lì che lavavano nei balmi, e conosce una, fa amicizia, magari dice simpatico e ti dai l'appuntamento, cesci e ti diverti. Facciamo qualche bagassumine, vedrai che va fatto bene. Ah, cercati una tromba amica, buonanotte e via. E sono anche divorziate, se basta girare, è pieno sasso di ragazze divorziate. Ma si venga, già lo so per lui cosa fare. Ah, non vale nel coso lì, in qualche specie di nudisti, hai capito? Ah, ma che trova, io, forza! Buonasera anche a lei, dottore, chi è este? Questo è il numero 1, la grande! Ho capito! Questo è il capo, il numero 1! Sta uscendo male, tutto compresso, sta uscendo male. Numero 1, magari fossi stato numero 1. Ah, uscire già, sto uscendo bene perché sto usando l'apparecchio, è stato un ecco. Però c'è un altro, c'è un Excalibur 98 euro, ho visto. Bello, quello era bello, agentato, 98 euro, un affare. Tu, no, il mio già rimane qua, ne ho già venduto 3, cazzo, bella volta venderlo un altro, di nuovo, no? Poi mi dice quello anche bene, lo so un altro. Chi vuole adesso se lo prende, c'è di roba che costa poco, su internet, su subito.it, basta andare, è pieno. E di cosa la tua? C'è lo Scaribook, c'è 98 euro, come è stato un ecco, Emi. Se lo vuoi basta che vai lì, l'ho visto poco fa, l'ho visto. Oh, fa il truffaldino, no, Antone. Quanto sta arrivando? Fammi la diretta. Segnale 7, radio 5, no, non penso che sia il truffaldino, già ci sono le recensioni, ho visto. C'è scritto anche la consegna quando ti arriva. Che radio è? Excalibur, è come Saturn Echo, tale uguale, solo che è metallizzato di colore. Ah, mi piace, preferisco Saturn Echo. Tu hai usato Saturn Echo adesso? Sì, sto usando Saturn Echo. Il più bello è il mio. E chi è? Avanti. Sì, il Tuscio, il Tornado 4005, il più bello è il mio. Tu quando ti senti adesso, bene, da tanti. Qui sto facendo bene, sguscio, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova. Però hai, scusate, qualcosa, prova di massa. Non esci male, però hai qualcosa che non va. Bobo, confermi. C'ha un fruscio, c'ha quando parla. Una specie di shh. Come c'ha questa propagazione, hai capito? Il resto già esce bene, di la patata c'è, il 4005 ce l'ho anch'io, sempre questo, anzi io ce l'ho superato il 2009, poi c'ho con il 4000 e il 4005 l'avevo regalato a Giaguaro, ce l'ho buttato a casa sua, non lo sta mai usando, c'ha quella, la mantova, un microfono da tavolo, con l'eco. C'è solo di apparecchiature in giro, basta farsi un giro di vecchi CB. Ascoltami, tu che ne sei, invece che compatta piccolina. L'antenna della Excalibur. E la Sigma Excalibur, com'è, la conosci? No, non la conoscono. Guarda, ci sono delle antenne che sono belline, la verità. L'altro giorno c'era la Mantova 100 euro, poi c'era la Mantova 5, ne voleva 150, ma... però stavo scendendo, già costava poco le antenne che stavo scendendo adesso, 200 euro, eccetera, eccetera, capito? L'unica che costa di meno è la BA27L, esce bene, ma la 5 ottavi è lunga 5,60 m, no, 6,50 m, non 5,60 m, 3 radiali. Non c'è bisogno neanche di tirantarla, si piega quando fa un bell'invento, si piega e poi non è neanche tanto mettetela come il pisello di un coso. Ok, capo, capo. No, io non volevo. Alessio. Ehi, a dimmi. Quel galassi che c'era tu, io cosa fa? I vasi chiusi e la cosa aperta, tutto chiuso aveva, l'hai aperto tutto. Ehi, aperto tutto io. L'unica cosa che andava bene è la potenza, la verità. Poi l'LC li hanno aumentato, l'unica cosa che devo cambiare è il trim del, come si chiama, dello smitter, quello della licenza di AM, basta, non devo cambiare altro, capito? Perché c'è appena di polvere, a volte mi riceve di più, a volte ricevo di meno, ma è una cazzata quella. Devo pigliare il disattatore, disaldare il trimmer, costa 10 centesimi e cambiarglielo, e basta, non devo fare altro. Poi del resto l'apparecchio funziona benissimo, non c'era nessun altro problema. Vabbè, a parte l'eco, che devo smontarlo e c'è un falso contatto in pratica, perché ho parlato col dito e l'eco già esce. Che faccio contatto nella pedinatura di qualche componente, ma dell'eco non me ne frega, non me ne fotte nulla per il momento. Vabbè, se non funzionava, non l'ho mai neanche provato io. Ce l'ho provato una volta, non funzionava e basta. Però lo smitter non mi funzionava bene. E quando l'apparecchio, se non beh che non lo usi, specialmente se apri un eco, fanno quel difetto, capito? È successo anche a come si chiama Franco, quello che parla Ussia, avevo dovuto cambiare tutti e quattro i trimmer. Che cosa avevo fatto io anche per quello di Bombolo, quando l'avevo lavorato, era un bel tempo fermo, ho preso e ho cambiato tutti e quattro i trimmer, era un demonio, ho avuto l'uomo del monte a prendere solo al volo, cioè 50 euro da Parigi. Era perfetto, usciva come questo qua, tale uguale. Ragazzi, mi stavo fermando un attimo, ma arrivo. Ma poi Lucetti? Eia. I pannoli dei trim quali sono? I trim sono quelli vicino al finale. Adesso non mi ricordo il numero dei trim. La verità, perché l'ho stampato, l'ho dato a un amico e non me lo ricordo, ma comunque devo fare la fotografia, una volta quando mi stacco te lo dico, se vuoi V8 o V9, adesso non me lo ricordo più. No, dicevo, il panone del film. Non me lo ricordo, devo staccarlo, hai capito? Perché in certi c'è scritto 104, in certi c'è scritto un altro valore, quindi devo attaccare, una volta che lo attacco ti saprò dire tale trim messo nello stampato per dire VR10, VR14, quello là, ti dico il valore, non fai altro che andare a fusarlo, comprarglielo e infilarglielo. Non ho capito. Adesso scendo male. se mi vado a trovare male che cazzo abbattimento da coso c'ho, ecco perché, aspetta, no. C'è andato metro quadrato, ciu. E allora, non ti pensavo che c'era abbattimento che... Ah, io non lo so, tutto come la chiore prende colpi, 3.900, nada. Io ce l'ho vicino, io sei molto attaccato, quindi lo gioco, lo sentivo, è su 15. Beh, se metto un canale a fianco, il canale a fianco sì, altrimenti no. No, ho capito. Vabbè, c'è parecchio che anche il 3.900 piglia colpi sempre quello. L'unico che non pigliava il colpi era il Kemut, il 680. Qua tu sono un canale di Slatter, l'11, le 12 non ti sento. Figurati. Poi c'è col iPhone sì. Ah, col iPhone in pratica mi senti. Io non ho capito una cosa dell'iPhone. Lo Smith gliel'ho cambiato, è nuovo, perché è nuovo. Praticamente, cosa succede? Vai a ficcare la portata e non sale. La può sale piano piano, poi si riprende e poi scende, sale, quando vado in trasmissione, ragazzo qua. Ma si blocca arrivato a un certo punto, cioè in pratica quando schiacci posso risalire, si blocca in un punto e poi devi tagliare un coppettino appena per farlo scendere dopo. Non si blocca più, no. Cioè, tu schiacci la portante, no? E sale piano, capito? Non è inchiodato, assolutamente, perché è nuovo quello smitter. E poi quando tipo scalda, va, c'è qualche componente, qualche condensatore, cosa ne so, allora va alla grande, funziona bene. Cambia il trimmer allora della regolazione dello smitter. Guarda che c'è il trimmerino proprio dove c'è quella piastrina messa in verticale dentro l'apparecchio. Cambia quel trimmerino lì, poi c'è l'altro trimmer che più sotto c'è scritto M, vabbè, quello è per il coso. Comunque e c'è scritto SRF, cambia quel trimmerino. Chi è il mio buco? C'è un altro apparecchio, la Typhoon. Lo togli e glielo metti nuovo, il trimmerino. Dove lo compro? La fusata lo prendi, lo stacchi e poi vai, la fusata lo prendi, adesso mi ricordo il valore, la verità. Ah, ce l'ha? Sì che ce l'ha. Via, ne farò così, dai, con calma, me lo smonto, lo dissato e glielo cambio, vediamo un po' se è quello. Tranquillo che è quello. Io ce l'avevo quel difetto, ce l'ho eccezione questo apparecchio qua. A volte scende lo smitter e poi sale tranquillo e si riprende, capito? E perché era un sacco di tempo fermo, capito? Poi vabbè, Giovanna l'ha lasciato fuori in terrazzo l'apparecchio. Infatti la lì, ho detto mettilo dentro a casa, ho detto che due gradi, ho detto non è che li facciamo bene, detto, a questi apparecchi qua. Vabbè, lo cambierò, sarà quello. Perché una volta è funzionato, e stava funzionando bene. Ma cosa ne so? Ma che ne so? Invece a vedere, ma più già messo domani, vediamo. No, ma l'ha messo il sole, martedì 10. Martedì, aspetta, le 8% di pioggia, no. Cazzo, 18 gradi ha messo, no, domani, dopodomani, 18 gradi. E venta, venne. Adesso no. Sì, anzi. E che c'ho 50, no, 65 km orari il vento, quanto sembra. Quanto? 65, ma non ci credo. Da certo passate le raffiche, cazzo, sarà 2080. No, è più forte. Cava. Buonasera. Buonasera a tutti, vi sto a sentire. Sto facendo cosa? Ciao a tutti, dello sceriffo. Capito, la c'hai? Ciao sceriffo, ben sentito anche a te. Sceriffo. Allora, mi sembra che usava Urani una volta. Ah, oh, no, sceriffo di Porto Ovest, era. Sceriffo di Porto Torres. Una volta c'era un civile, si chiamava sceriffo di Porto Torres. Nuovo. Non so chi sia. Sì, già la dire non lo intendo. Uia, carità. C'hai per caso coperchi di M300, quelli dove c'è l'attacco del, come si chiama, della capsula. E ho dato la, il baracchino all'amico mio e me l'ha disintegrato il microfono. Il DM1000, siccome l'unico che si assomiglia è quello dell'M300. Mi sembra solo quello di davanti, quello di dietro non me ne frega niente. No, ne ho. Cazzo, ne avevo due, non mi ricordo a chi ho dato. O chi ho dato o dove ce li ho messi. E controllo tutto a casa, posso averli messi quei coperchi. Per me non mi sistema questo microfono. L'ha disintegrato. No, ne ho pompo, no. Carcasse di microfoni zero. No, questi di camione ho. Nada. No, perché c'ho dei M1000. Mi ha crepato il fianchetto, mi ha crepato dove c'era il pulsantino della portante e il resto. Quindi devo cambiarlo per forza la parte di sopra. Adesso vediamo un po', domani mattina svuoto tutto, vediamo se riesco a trovarle qualche posto. Domani già è un FM500S, almeno se crepa crepa quello, se abbia in culo. Di roba, di baracchino, come tieni di un pronto. Se lo sfascia sono problemi tuoi. Vabbè, dove se te si trova su internet, basta cercare. Porca, perché dai, il microfono che avevamo messo in quell'apparecchio omologato famoso, lo c'è uguale Natalino che la capsula non si serve a nulla. Io ho cambiato la capsula, ma fuia. Per carità. A meno che non aspetto e ti compro M95, ti piace quello. La Fusaro, mi sembra che costava, avevo pagato 20 euro quel microfono. Kappa. Uia. Carità. Andrea Ricoppi qua sul 10. Andrea Valentetto, avanti su Ricoppi. Kappa. Back. Avanti, back.